Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre. Saluto al telefono con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. La scorsa settimana Carlo Garofolini insieme a Mirko Cavallini ci avevano raccontato la storia di 35 bollette arrivate per un'utenza chiusa. Erano bollette del gas, credo. E noi quest'oggi parliamo di un'utenza chiusa, ma questa volta di corrente elettrica. Spiegaci un po' i particolari e facci rabbrividire. Ecco, diciamo, neanche a farla apposta, Francesco, ci troviamo anch'io e te, insomma, a parlare di una cosa di cui hanno parlato i nostri colleghi pochi giorni fa. Ed evidentemente è un po' una consuetudine quando ci troviamo di fronte a delle volture. Allora, andiamo a spiegare subito. Come nella puntata precedente, proprio come in un telefilm, nella puntata precedente abbiamo raccontato l'avventura, anzi il nostro precedente ha raccontato la disavventura, più che altro, di un medico di base, in realtà a quel tempo era dentista, che aveva uno studio, a un certo punto ha cambiato gestione, se n'è andata via, è andata a fare un altro lavoro, però a un certo punto in due giorni tra marzo e aprile gli sono arrivate 35 bollette per un totale di 7.000 euro da pagare, però oggettivamente lei in quello studio non c'era più, stiamo parlando di bollette del gas, quindi chiaramente ha cominciato a contestare, non ti dico le vicissitudini che ha dovuto affrontare tra call center, chiamate di ogni tipo, lettere, eccetera. E diciamo che qua, in questo caso, per fortuna è intervenuta Adico, per fortuna siete intervenuti anche voi, quindi anche anche i mass media, insomma, per cui la situazione si è risolta subito. Enel ha chiamato la signora e ha chiesto scusa, ha detto si è sbagliata e manderà 35 bollette di storno, e quindi annunciamo anche questo ai radioascoltatori, la situazione è stata risolta. Però insomma ci siamo ritrovati subito con un'altra situazione molto simile e anche più gravosa a livello di importi. Qua stiamo parlando di una ragazza, di una giovane esercente che ha provato l'avventura a Jesolo, così, gestendo un bar nel 2008. Una cosa normalissima, praticamente lei ha chiesto la voltura, ovviamente, dal precedente gestore, ha chiesto la voltura dell'energia elettrica. Diciamo che Enel in questo caso non è stata particolarmente rapida nel fornire la voltura, tant'è che da aprile a ottobre non si era visto ancora niente. Diciamo che la nostra socia continuava a pagare le bollette al gestore vecchio, al quale appunto arrivavano le fatture stesse. Succede che a ottobre la nostra socia si è stufata, ha detto vabbè, guarda, voglio annullare questa voltura che tanto non sta arrivando. C'è stata la risposta di Enel, sempre molto in ritardo, che le ha comunicato che in realtà la voltura era andata a buon fine. Insomma, in definitiva, teoricamente, a novembre 2008 la nostra socia aveva l'utenza a suo nome. La cosa divertente però è che la nostra socia a dicembre ha deciso di mollare tutto, ha ottenuto la cessazione dell'utenza da Enel e, in teoria, qua doveva essere finito tutto. Eh sì. Però succede, come sempre, che le cose non vanno spesso per il verso giusto, al che tanti anni dopo, esattamente nel 2014, quindi Francesco, ricordiamoci anche che ci sono dei passaggi veramente lunghi, quindi bisogna sempre aspettarsi di tutto, anche quando si chiude un'attività, nel 2014 arriva la telefonata, credo addirittura di un recupero crediti di Enel, che comunica la nostra socia, questa esercente, che praticamente aveva delle pendenze esattamente per un totale di, sono 34 bollette anche in questo caso, per un totale di 17.000 euro, anzi di più di 17.000 euro. Non ti dico chiaramente la cosa possa aver provato questa persona pensando a un anno di attività e 17.000 euro di energia elettrica, ma il problema grosso è che poi queste bollette si riferiscono a un periodo in cui lei aveva già abbondantemente ceduto l'attività, esattamente del periodo 2009-2013. Ricordiamo che la nostra socia aveva lavorato in quel bar, aveva gestito quel bar solo nel 2008. E quindi siamo ancora qua a chiederci cosa possa essere successo. Ecco, quindi probabilmente bollette che dovevano andare a un altro sono finite a lei, sempre per questi probabili problemi di volture. Allora, con la voltura, Francesco, ci troviamo spessissimo a dover gestire delle situazioni, non dico come queste, però simili. È chiaro che probabilmente ci sono dei passaggi a volte che sfuggono agli stessi aziende quando devono inserire alcuni dati nel computer. Qua noi stiamo un po' indagando, a dire la verità, vogliamo anche capire se ci sia stata una problematica con l'attuale gestore, perché effettivamente insomma ci sono delle cose poco chiare. La cosa certa e lo possiamo dire perché abbiamo la documentazione che ci ha presentato la nostra socia, non lo diciamo perché ce l'abbia detto solo lei, ci ha presentato tutta la documentazione e lei comunque nel 2008 ha cessato l'utenza, è scritto sulle carte. E quindi? Quindi è una cifra che dobbiamo cercare di capire da dove si è arrivata fuori. Voglio sottolineare un'altra cosa, la nostra socia non si è arresa ovviamente quando ha ricevuto quella lettera, ha cominciato anche a mettersi in mano ad avvocati, per ora non è venuta a capo a niente e ha deciso di affidarsi all'Adico e tramite il nostro ufficio legale noi ci rivolgeremo all'arbitro bancario sperando e anzi sicuri di poter ottenere un successo. Insomma c'è un foglio che dichiara la fine di un'utenza, a questo punto il gestore, il fornitore dovrà cercare qualcun altro a cui chiedere questi soldi. Va bene, Gianluca, attendiamo buone notizie come sempre e ci terremo aggiornati. E ovviamente ci ritroviamo anche tra qualche giorno per un nuovo appuntamento con l'Adico. Grazie Francesco, ci sentiamo fra qualche giorno. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.